9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì, anzi giovedì 7 luglio, oggi San Claudio, un saluto e un auguro a tutti i Claudi. E l'argomento di cui ci occupiamo oggi è un argomento che di volta in volta nell'ultimo anno in realtà abbiamo sfiorato già in altre puntate. È un argomento importantissimo perché ha a che vedere con il meccanismo attraverso cui si seleziona e si definisce la rappresentanza di noi tutti del corpo elettorale italiano, perché oggi parliamo della legge elettorale, o meglio parliamo delle iniziative che sono partite nell'ambito del centrosinistra, iniziative di ordine diverso, ma che sono volte a verificare la possibilità di consultazioni popolari, alla luce anche del fatto che si torna a fare quorum, come è avvenuto poche settimane fa nei referendum, consultazioni popolari referendarie volte appunto a correggere la legge elettorale attuale. La legge elettorale attuale, nota come Porcellum per definizione dello stesso ministro Calderoli che vi lavorò, è, come notoriamente sapete, giudicata scandalosa anche dal sottoscritto, ci mancherebbe, per via della lista bloccata, in parole povere, che consegna nelle mani dei leader di partito la selezione degli eletti, poiché è ragionevole nella stratigrafia storico-geografica del voto del nostro paese è ragionevole per un leader di partito sapere dove è più o meno sicuro avere i propri eletti, quindi individuandoli e dando il nome li sceglie lui. E questa è agli occhi di tutti il difetto fondamentale di questa legge elettorale, ma non è solo questo il difetto fondamentale, è più qui però ci si divide perché ovviamente la valutazione delle altre caratteristiche della legge elettorale attuale, il premio di maggioranza rispetto a un meccanismo proporzionale e senza collegi uninominali come è l'attuale legge elettorale, beh, lì sul giudizio intorno a questo premio di maggioranza le opinioni iniziano a divergere, perché ovviamente il giudizio su un premio di maggioranza senza collegi uninominali diventa un giudizio sul bipolarismo particolare che abbiamo introdotto dai tempi dei referendum sul maggioritario, sulla preferenza unica del movimento referendario di Mario Segni all'inizio degli anni 90 a oggi, un bipolarismo particolare perché, e qui questo è il mio giudizio personale, mi guardo bene dall'esprimere giudizi definendoli convergenti perché non lo sono, sono molto divisivi, è un bipolarismo che a mio giudizio è sbagliato perché non è stato compiutamente, organicamente poi esteso alla forma di governo, ai rapporti tra governo e Parlamento, ai poteri tra Presidente del Consiglio e componenti del governo, ed è diventato invece un maggioritario zoppicante, perché appunto coesiste con principi come quelli dell'attribuzione del rimborso elettorale ai partiti iperproporzionali che non sono mai cambiati e che quindi hanno essi prodotto il frazionamento nel Parlamento, continuando a dare il diritto a formazioni intorno all'1% ad avere il rimborso elettorale. Ed è ovvio che se il rimborso elettorale è il meccanismo attraverso cui poi si definisce il diritto di micro leader di attivare il massimo del proprio diritto di interdizione o di ricatto politico all'interno di una coalizione frammentata, ma ho la possibilità di avere denari per farmi il mio gruppo e il mio partito, ecco che a quel punto l'incitamento al frazionamento prevale sul principio maggioritario della legge elettorale. Ma ripeto, su questi giudizi, sul tipo di bipolarismo, sui difetti e i pregi del bipolarismo rispetto al frazionamento, qui effettivamente il campo dei giudizi politici è molto diviso, ed è per questo anche che oggi, parlando delle due iniziative che hanno animato le cronache di queste due ultime settimane, in realtà l'invito che faccio a tutti, chiamando all'800 24 00 24 e mandando messaggi al 349 238 6666, è a dirci quale sia il vostro giudizio. Noi sentiremo adesso il giudizio delle due parti che hanno iniziato a dire c'è bisogno di un input popolare, per così dire, visto che in Parlamento altrimenti con ogni probabilità anche questa legislatura finirà con la legge elettorale attuale e quindi poi bisognerà ripartire Da zero. Ci sono due iniziative in campo. C'è un'iniziativa di cui abbiamo con noi il primo promotore, per così dire, ed è un'iniziativa che è partita attraverso l'iniziativa di Stefano Passigli, che è un ex senatore del PD e tra i promotori del comitato del referendum. E i due quesiti sui quali si sono stati raccolti da Stefano Passigli e dagli altri componenti del comitato al referendum molte firme di intellettuali e anche naturalmente di esponenti politici, ma i due quesiti sono: uno volto appunto alla cancellazione della lista bloccata, l'altro volto all'abrogazione del premio di maggioranza, e quindi la legge elettorale risultante dall'iniziativa referendaria sarebbe un proporzionale corretto con le soglie che sono attualmente previste. Mentre a questa iniziativa è poi seguita ed ha fatto reazione un'altra iniziativa che dice: no, attenzione, la lista bloccata sì, ma tornare al proporzionale no, noi preferiamo allora la legge elettorale, il cosiddetto Mattarellum, e quindi siamo orientati a diversi quesiti rispetto ai due. E abbiamo con noi Stefano Ceccanti, senatore del Partito Democratico, che per così dire fa parte, insieme a Arturo Parisi, amico del professor Barbera, dello schieramento di chi vuole correggere, sempre nell'ambito del centrosinistra, questa legge elettorale, ma difendendo il principio maggioritario e cassando il principio della facoltà cieca attribuita ai leader di partito di eleggere attraverso liste bloccate. Ecco, queste due iniziative poi hanno, e ho finito la mia introduzione, animato proprio nelle ultime 72 ore anche un confronto all'interno del Partito Democratico. Pierluigi Bersani, il leader del PD, ha pregato tutti, invece di moltiplicare le iniziative, di aspettare perché sia il Partito Democratico ad assumersi poi l'iniziativa, a maggior ragione ove gli elettori poi si fossero pronunciati e fosse cambiata la maggioranza politica, di rimettere mano alla legge elettorale. Vedremo, perché naturalmente le iniziative del deposito dei quesiti erano state annunciate, e vediamo se questa dialettica poi si incrocia anche con una dialettica interna al PD. Ma oggi non ci occupiamo tanto della faccenda interna al PD, interna al centrosinistra, quanto delle questioni di merito sollevate dai proponenti, per sentire anche da voi a casa che impressione vi fa, se sareste disposti, secondo i due quesiti che adesso vi illustra Stefano Passigli, a tornare anche a un proporzionale corretto, oppure se dite no, noi non dobbiamo buttare con l'acqua sporca anche il bambino e quindi difendiamo il maggioritario. Allora, ecco i due ospiti. Stefano Passigli con noi, buongiorno e ringrazio. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Stefano Ceccanti, anche lui con noi, e ringrazio anche lui. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Passigli, a lei diritto la primazia, perché in realtà è stato lei a muoversi per primo a raccogliere le firme. Allora, che cosa farete? Intanto andrete avanti con l'iniziativa o raccogliete l'appello di Bersani? E poi spieghiamo meglio quali sarebbero gli effetti dei quesiti. Ma innanzitutto l'appello di Bersani non è rivolto a noi. Bersani ha detto con molta chiarezza che si attende che dirigenti di partito non utilizzino l'arma del referendum e attendono invece le iniziative politiche e la proposta di legge su cui il partito ha lavorato e su cui già si è registrato, mi sembra, una specie di unanimità in quello che viene chiamato il caminetto, cioè nelle riunioni di vertice. E Bersani ha detto con molta chiarezza che un referendum di società civile ha le logiche di un referendum della società civile, non è nella disponibilità di nessuno dei membri di un comitato promotore di società civile, di nessun singolo membro, ritirarlo, modificarlo. Ormai sono quesiti presentati, c'è una lunga lista di esponenti illustri della società civile, delle arti, delle professioni, imprenditori, scienziati, eccetera. Tutto questo va avanti. Perché tutto questo è stato pensato? Nell'ottica di uno stimolo e di un pungolo al Parlamento, perché per anni si è parlato di modifica della legge elettorale, ma questa modifica non è mai avvenuta se non con il colpo di mano che ha portato alla porcata. La porcata non piace a nessuno, probabilmente oramai non più nemmeno al suo proponente, al partito che l'ha proposta e portata avanti, la Lega, ma è sempre lì. Allora, stimolo al Parlamento, un referendum significa, signori, se non provvedete, provvederemo noi cittadini. Su due quesiti, quelli che lei giustamente e molto chiaramente ricordava. Allora, primo obiettivo, stimolo al Parlamento. Per far che cosa? Abrogare le liste bloccate. Le liste bloccate, ricordiamo che da 20 anni a questa parte, cioè da quando è nato il Mattarellum, i cittadini non scelgono più i loro candidati, i loro parlamentari. Votano per un simbolo di partito e sono le segreterie di partito che sia con i collegi che con le liste bloccate danno, distribuiscono le carte. Si può dare un collegio sicuro o un collegio perdente, si può mettere in cima una lista e fare eleggere una persona o metterla in fondo e non farla eleggere. Tra collegi e liste da questo punto di vista non c'è grande differenza. I collegi hanno un vantaggio che gli va riconosciuto, quello che poi producano una maggiore vicinanza sul territorio tra l'eletto e l'elettore, ma è l'unico vantaggio. Non si può certo dire che l'elettore abbia votato e scelto quella persona piuttosto che un'altra. Per fare questo ci vogliono le preferenze. Ripeto, i collegi hanno altri vantaggi e si potrebbe benissimo pensare anche a un sistema di collegi con primarie regolate però per legge, per ridare comunque al cittadino quello che è un suo diritto fondamentale, quello di scegliere chi lo rappresenta, se no la cosiddetta democrazia rappresentativa diventa democrazia rappresentativa dei capi partito e non dei cittadini. Secondo quesito, l'abolizione, abrogazione del premio di maggioranza per Camera e Senato. Non entro nelle questioni di ammissibilità da parte della Corte che sono estremamente tecniche, noi crediamo che non sia assolutamente possibile far rivivere il Mattarellum attraverso un'iniziativa referendaria, la Ceccanti poi probabilmente vi dirà che ugualmente lui non crede alla possibilità di abrogare le liste bloccate attraverso il meccanismo che abbiamo messo a punto. Su questo propongo, questioni estremamente tecniche, le decide la Corte, lasciamole decidere alla Corte. I principi che stanno dietro sono: vogliamo o non vogliamo il Mattarellum, vogliamo o non vogliamo riappropriarsi del diritto di scegliere i candidati. E allora veniamo alla questione dell'abrogazione del premio di maggioranza. Il premio di maggioranza, innanzitutto diciamo, esiste solo in Italia. Nessun paese al mondo conosce un premio di maggioranza che trasformi una minoranza in una maggioranza. Anche i sistemi più maggioritari del mondo deformano ovviamente la traduzione percentuale dei voti in seggi, se no sarebbero sistemi percentuali, ma nessun sistema maggioritario del mondo ha un effetto di premio così forte come il premio di maggioranza italiano, che potrebbe dare ormai, con il venir meno della forza delle coalizioni, la coalizione prodiana, l'unione prodiana ormai è rifiutata chiaramente dai suoi principali componenti, l'unione realizzata intorno al PDL, di PDL e Lega altri sta venendo meno, ormai col 35 o 40% al massimo si può pensare di vincere le elezioni e ottenere il 55% dei seggi tra Camera e Senato, con poca differenza tra le due Camere, comunque di ottenere la maggioranza assoluta essendo minoranza. In un paese in cui abbiamo visto fare dello shopping parlamentare e acquistare il voto di alcuni eletti, perché ormai siamo al notabilato e al trasformismo, ma questo 55 non escluderei nemmeno che possa diventare, con un'accurata politica di acquisti, diventare addirittura il 65 ed eleggere anche i giudici della Corte Costituzionale. Col 55 già si elegge le altre magistrature di garanzia, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza delle Camere, si eleggono le autorità indipendenti. Allora, questo premio di maggioranza distrugge ancor più di quanto non sia già stato distrutto il sistema di pesi e contrappesi della Repubblica. Una minoranza può diventare una minoranza, maggioranza relativa, ma pur sempre minoranza nel Paese, può avere il controllo assoluto di tutte le istituzioni, quindi va modificato. Cioè, ma così si distrugge il bipolarismo, enorme, enorme bugia. Perché non si distrugge il bipolarismo? Perché se si guarda le esperienze europee, in tutti i paesi europei, meno la Francia che è un sistema semipresidenziale, ha le logiche, lasciamolo da parte, meno quindi l'Inghilterra, tutti gli altri grandi paesi europei hanno sistemi elettorali proporzionali, corretti variamente, razionalizzati variamente, o con collegi piccoli la Spagna, o con artifici costituzionali la Germania, o agendo con soglie di sbarramento particolari. Comunque tutti i sistemi hanno che cosa? Hanno leggi elettorali proporzionali a cui corrisponde una competizione bipolare per il governo. L'unico paese che ha un chiaro maggioritario, che è l'esempio tipico del maggioritario, l'Inghilterra, con le ultime elezioni ha dimostrato che cosa? Che ormai è un sistema tripolare dove le coalizioni di governo si formano dopo le elezioni e quindi non vengono scelte dai cittadini. Quindi l'equazione maggioritario uguale bipolarismo, proporzionale uguale caos, instabilità, eccetera, è assolutamente da rifiutare. Va bene, e naturalmente la Gran Bretagna ha anche poi nella successiva vita della coalizione dimostrato che l'iniziativa dei liberal democratici far pronunciare i britannici sulla legge elettorale non è poi stata accolta dal corpo elettorale britannico stesso, e lì è uno dei meccanismi in cui la correzione della minoranza che si riconosce nel partito che vince le elezioni in Parlamento con una fortissima maggioranza è una delle più forti che esistono al mondo, come sa il professor Passiglia. Allora, controargomentazione, o meglio, illustrazione invece del punto di vista di chi dice, torniamo al Mattarellum affidato al professor Stefano Ceccante. Sì, dunque, contestualizziamo questo nostro dibattito. C'è un dibattito in Parlamento, fino a questo momento purtroppo improduttivo. Il Parlamento ha dei margini di intervento nettamente superiori a quelli di un corpo elettorale nel referendum che può solo ritagliare alcune norme. In astratto, io penso che la proposta del Partito Democratico sia senz'altro migliore di tutte le cose che abbiamo detto fino a qui, ottenibili per via referendaria, perché il collegio uninominale a doppio turno, che è il perno della proposta del Partito Democratico, è molto simile a quello, al sistema che noi conosciamo per l'elezione diretta dei sindaci, riproduce in un collegio elettorale l'elezione diretta dei sindaci, che consente quindi sia di fare le aggregazioni in modo più coerente e dopo un turno di filtro, ma anche consente bene una scelta dei rappresentanti, perché per esempio se ti scelgono un candidato della tua area politica che non condivide al primo turno, puoi promuovere un candidato dissidente al primo turno che lo scavalchi e che diventi candidato ufficiale al secondo, accade alcune volte anche in elezione dei sindaci. Cioè, quindi questo è l'ottimo, il collegio uninominale a doppio turno. Quest'ottimo però non è molto chiaro che possa essere conseguito, questo è il problema. E quindi tutti, Passigli, noi, ci troviamo a misurarci con il problema di vedere se è possibile intanto ottenere un bene in attesa che arrivi l'ottimo. Magari conseguire il bene per via referendaria può obbligare il Parlamento a andare in direzione ulteriormente migliorativa. Allora, questa è la premessa, quindi l'ottimo è il collegio uninominale a doppio turno. C'è il problema di cosa sia il bene. Ora, Passigli ha promosso un'iniziativa referendaria. Questa iniziativa referendaria consegue il bene rispetto all'ottimo oppure no? Ora, noi abbiamo, quelli che non hanno condiviso l'iniziativa di Passigli, abbiamo una valutazione. Questa valutazione non può prescindere anche dalla questione di ammissibilità dei quesiti, che noi siamo convinti che mentre i quesiti astrattamente accettabili come obiettivo, quelli che rimuovono liste bloccate non funzionano, non funzionano in alcun modo perché non superano liste bloccate e sono inammissibili, l'unico quesito che ha possibilità di ammissibilità è quello che toglie il premio di maggioranza senza metterci al suo posto i collegi. Quindi secondo noi, e questo non possiamo rinviare alla Corte, perché noi ne siamo convinti già oggi che l'esito della Corte sarà questo, il risultato del referendum Passigli è un sistema proporzionale puro con sbarramento al 4, sbarramento che però è aggirabile, perché le forze politiche possono aggregarsi in mini coalizioni facendo una lista e ridividersi subito dopo. Basti pensare alla cosiddetta sinistra arcobaleno, che poi non superò lo sbarramento, ma che era una coalizione che voleva entrare così. E questo sistema proporzionale puro con liste bloccate fa sì che un insieme di liste bloccate entrino in Parlamento in assenza di qualsiasi incentivo, sia di correzione che c'è in altri sistemi proporzionali, perché per esempio in Spagna con poco più del 40% si arriva comunque alla maggioranza assoluta dei seggi, però un premio nascosto, per così dire, con premi nascosti quali sono quelli dei collegi nominali, che sono molto più sensati e meno rozzi di quello italiano. Cioè, in assenza di vincoli costituzionali o di convenzioni stabilizzate che dicano che, diciamo, si crea una coalizione di governo intorno al segretario del primo partito, cosa che in altri sistemi istituzionali nessuno metterebbe in discussione, che anche in Inghilterra il governo si è fondato dopo, ma si è creato intorno al leader del primo partito. In Italia, come noi sappiamo, anche nella cosiddetta prima repubblica, non c'era nessuna convenzione né a livello di sindaci, ma anche a livello di Parlamento nazionale, per cui poteva benissimo capitare che una personalità eletta, magari una lista che otteneva un unico seggio, siccome era il 21esimo consigliere comunale su 40, diventava sindaco. Quindi, secondo noi, non promette la cosa importante, non mantiene la cosa importante che promette il quesito, la rottura delle liste bloccate, e invece peggiora la situazione perché toglie il premio senza sostituirlo col collegio. Se noi abbiamo questa valutazione e se legittimamente i promotori del referendum decidono di andare avanti, è evidente che noi non possiamo, tutti coloro che nella società civile, tra i costituzionisti, non condividono di trovarsi poi di fronte alla scelta tra una legge sbagliata e un quesito sbagliato, devono trovare una terza alternativa. L'unica terza alternativa che alcuni costituzionalisti, a partire dal professor Luciani, hanno individuato è quella di provocare una rinascita della legge Mattarella con due tecniche diverse. Alcuni sostengono, e questo è più contestato, che possa risorgere da una pura e semplice abrogazione secca della legge Porcello, altri invece, il professor Luciani, ha elaborato negli ultimi tempi un altro sistema in cui ci arriva in modo diverso, ritagliando le singole norme che hanno provocato questo mutamento. Comunque, al di là degli aspetti tecnici, è possibile, secondo molti, arrivare a questo esito, che certo non è ottimale, però resuscitare i collegi uninominali, sia dal punto di vista del rapporto eletti ed elettori, sia dal punto di vista di arrivare indirettamente alla scelta della maggioranza di un governo, è una soluzione migliore. E quindi è una specie di terza via. Se il Parlamento non legifera, non arriva all'ottimo, rispetto all'alternativa sbagliata, tra i quesiti, per noi sbagliata, tra i quesiti proposti da Passigli e lo status quo, è meglio avere una terza via. Siccome a questo punto mi sembra evidente che l'iniziativa Passigli va avanti, a questo punto lunedì ci saranno in Cassazione anche gli altri quesiti, inseriranno un ulteriore elemento di dibattito e faremo una discussione, penso utile per tutti, nei prossimi mesi. Buongiorno, eccoci tornati in studio e avete sentito la puntigliosa, anche un po', dicono gli ascoltatori, tecnica, ma illustrazione dei due punti di vista. Purtroppo le leggi elettorali sono questioni tecniche, ma ripeto, hanno a che vedere con meccanismi fondamentali che trasformano il vostro voto in una rappresentanza parlamentare, e questo poi è la base attraverso cui si definisce il rapporto tra parlamenti e governi, forma di governo, forma Stato. Il meccanismo della rappresentanza elettorale è fondamentale da sempre, quindi io capisco che vi potrà sembrare, rispetto ai problemi del paese, della manovra, del fatto che ieri l'hanno illustrata e hanno deciso, ricordate che ieri mattina abbiamo criticato pesantissimamente la parte relativa al mancato aggiornamento degli assegni previdenziali, e ieri pomeriggio il governo ha puntualmente detto che anche su quello è disposto a tornare indietro. Mi rendo conto che, ed è verissimo, che i problemi nelle tasche degli italiani, nel lavoro, nell'economia, nelle lunghe code della crisi sono altri, ma la questione della legge elettorale è una questione fondamentale, e oltretutto, come avete sentito, se le due iniziative referendarie a questo punto vanno avanti, come mi è parso di capire, attenzione, perché come ci hanno insegnato il referendum di poche settimane fa, sembra quando partano i referendum che siano eccentrici, ma poi diventano fondamentali, e lo sono stati nella storia italiana, per dare delle aggiustate generali, per così dire, a quel punto la politica, dopo non aver saputo risolvere i problemi in Parlamento al posto giusto per anni, deve assolutamente tenere conto. Quindi, di fronte all'eventuale sì di una corte che accettasse i due quesiti che ci ha illustrato Passigli, e abolizione della lista bloccata, ma abolizione anche del premio di maggioranza, ritorno a un proporzionale corretto ma aggirabile, da un tetto al 4% e dalla diversa disciplina dei tetti al Senato, oppure possibilità, illustrataci da Ceccanti, di tornare ai collegi uninominali senza quindi abolire un principio maggioritario, ma abolendo con altrettanta durezza le liste bloccate. Su questo sentiamo intanto come la pensate voi e poi facciamo rispondere i proponenti. Abbiamo innanzitutto Michele che ci chiama da Napoli. Prego Michele. Buongiorno, salve. Allora, io chiamavo in realtà, sostengo molto la linea del professor Vassallo, quindi di un salvataggio del maggioritario, e anche perché le preferenze hanno determinato in molti casi dei meccanismi, basta vedere alle europee o alle elezioni regionali, dove appunto i blocchi di potere, da un'esperienza per esempio se si guarda agli eletti del PD al meridione alle europee, determinano appunto un'elezione che prescinde sotto certi punti di vista poi dopo da una selezione reale della classe dirigente. E lanciamo una provocazione al professor Vassallo e sapere se c'è una possibilità di discussione da un lato da parte del PD sulla proposta del decreto proposto da Quagliariello e Cicchitto sulle primarie per legge, quindi se può esserci una convergenza da quel punto di vista, e dall'altro su un'altra proposta che era emersa qualche anno fa, che poi dopo non ha avuto granché seguito, da parte dell'UDC sul sistema del cosiddetto provincellum, con uno sbarramento magari alto per evitare la proliferazione nei collegi piccoli di molte liste, che però consente con collegi più piccoli, magari lasciare giusto una quota proporzionale massimo al 30%, una maggiore, come dire, rappresentanza territoriale per quanto riguarda appunto gli eletti. Quindi questa era la mia domanda e proposta. Grazie Michele, come vedete Michele è del mestiere, per così dire. Marco che ci chiama dalla provincia di Milano, prego Marco. Sì, buongiorno, senta, io purtroppo sono di parte, sono un sindaco della provincia di Milano. Perché purtroppo, mica è. Grazie al cielo esiste ancora chi fa l'amministratore pubblico e non mica se ne deve vergognare. Cioè. No, ma non me ne vergogno, anche perché tutto sommato è un comune che va bene nonostante le difficoltà in cui tutti versiamo. Detto questo, siccome il tema a noi c'è molto caro, come sindaci io sono non solo favorevole che ci sia un'iniziativa referendaria, comunque sia da stimolo al Parlamento per metterci le mani, perché è un sistema oggi che purtroppo, lei ha detto bene in premessa, fa male a tutto il Paese. Non è vero che queste sono questioni tecniche, ma quando noi eleggiamo della gente che va in Parlamento e si siede, deve sapere perché sta lì, deve avere conoscenza e competenza, deve avere un know-how tale per cui dà un contributo alla nazione tutta, cosa che oggi non avviene, perché chi è lì, come sappiamo tutti, o è designato ed eletto poi perché c'è un marchio di partito che viene votato, è nominato, ma è il concetto che è scollegato dai territori. Essere scollegati dalla realtà territoriale significa non avere coscienza che comunque, al di là che non esiste il mandato imperativo, perché questa è la Costituzione, certo, lo vieta, però comunque non c'è la connessione che tutta la filiera istituzionale necessaria e indispensabile. Ma lei è più a favore di preferenze come esplicito nelle parole di Passigli in quell'iniziativa referendaria, o a favore del collegio uninominale? No, io sono favorevole per le preferenze, perché certo, la selezione della classe dirigente deve passare attraverso un consenso. Chi viene eletto con le preferenze ha un'autorevolezza superiore. Può avere delle strutture, io sono perfettamente d'accordo che ci sono delle strutture nel sistema delle preferenze, ma questa è la democrazia, che non è un sistema perfetto, ma è l'unico fino ad oggi che ci ha consentito di vivere in pace per 60 anni. Cioè, dobbiamo capirlo questo. Grazie Marco, chiarissimo, levo solo tempo perché ci sono altri ancora in fila. Andrea che ci chiama da Ferrara, prego Andrea. Sì, buongiorno e tanto complimenti per la trasmissione Giannino. Io anch'io sono del mestiere, nel senso che sono un democristiano senza democrazia cristiana da diverso tempo e devo dire la verità, io rimpiango di essere stato in gioventù un fautore del maggioritario, della scelta del bipolarismo. Io sono molto pentito, faccio un mea culpa a tutto tondo e mi rendo conto che il bipolarismo io gli nego al bipolarismo un valore aggiunto per la democrazia. Noi non siamo un paese che è nato per il bipolarismo. Mi spiace che Passigli prima abbia quasi detto ma no, perché c'è un valore all'interno del bipolarismo, ma diciamolo chiaramente, che valore c'è stato in questi ultimi 15 anni? Il valore del bipolarismo delle bastonate, voglio dire, non, ridateci quello che c'era prima, ma ridatecelo tutto per intero, proporzionale, puro, purché non si vada avanti con questo bipolarismo a bastonate. Non se ne può più. E quindi insomma, è chiaro che devo dedurne l'iniziativa che più le sembra vicina a questo suo punto di vista esplicito e dichiarato è quella illustrataci da Passigli. Benissimo, allora abbiamo poi Maria Teresa che ci chiama dalla provincia di Torino e credo che abbia anche la radio alta e debba abbassarla. Pronto? Ecco Maria Teresa, prego, il suo punto di vista. Io voglio proprio, questo referendum lo voterei perché siamo stati trasformati da cittadini sudditi, ovvero i segretari del partito ti dicono votate questo e noi da bravi sudditi mettiamo la crocetta, per cui il referendum ben venga. Io poi sarei per il maggioritario secco uninominale, assolutamente. E poi dico questo, se non prendiamo noi in mano la situazione, siamo in mano a un'oligarchia che è pletorica, privilegiata, ma soprattutto inconcludente e non mi fido più, assolutamente. Per cui riprendiamoci la nostra dignità di cittadini, perché qui ci hanno trasformato con questa porcata, me lo lasci dire, in sudditi. Grazie, grazie Maria Teresa, credo che in realtà l'energia con cui abbia parlato è totalmente condivisa oramai, perché non credo ci sia più quasi nessuno tranne chi ha l'interesse in Parlamento oggi a difendere questa legge elettorale perché lo considera una delle ultime trincee per provare a difendere innanzitutto la coalizione raccogliticcia e mutata rispetto al voto con cui difende l'attuale governo. Ecco, questa è la ragione, in realtà, lo dico freddamente, non per criticare, ma mi sembra un fatto oggettivo per cui in Parlamento vige ancora questa difesa estrema della legge elettorale attuale. Sentiamo Monica che ci chiama da Verona. Prego Monica. Sì, buongiorno. Io avevo fatto questa riflessione con la sua collaboratrice, e cioè è triste che in 15 anni l'unica cosa che sembra possa essere così alla portata di una decisione sia proprio quella di tornare indietro seccamente alla proposta, alla legge Mattarellum, diciamo. E comunque mi pare strano, o meglio, lei l'ha appena precisato, nel Parlamento risiede il blocco che si oppone sostanzialmente alle modifiche proprio perché ci sono gli interessi di quelli che attualmente sono lì e che sperano di poter perpetuare la loro posizione. Quello che io dico è che sostanzialmente si riprende in mano sempre la discussione sulla legge elettorale quando manca troppo poco alla fine della legislatura per mettersi d'accordo, quando è effettivamente possibile solo iniziare a ragionare, ma poi si vedrà, perché come sempre poi interviene giorno... il voto. Ma proprio per questo però l'iniziativa referendaria con la raccolta delle firme in autunno eccetera eccetera e potrebbe poi portare l'anno prossimo, qualunque sia l'esito, ci sia ancora in piedi questa legislatura oppure no, naturalmente con le conseguenze sul voto referendario, se poi si dovesse andare a votare per le politiche che ci sono ben note, ma intanto sarebbe un'iniziativa nuova, ecco, rispetto alla rassegnazione di ciò che in Parlamento di volta in volta non avviene per le esigenze della maggioranza pro tempore. Eccoci, e prima di ridare la parola a Stefano Passigli e poi a Stefano Ceccanti, una risposta ai molti che hanno mandato sms colpiti dal fatto che altre ascoltatori, ho riferito prima il loro punto di vista, qui al 349-238-6666, dicessero una trasmissione un po' troppo tecnica, e altri hanno detto sì, ma allora se è tecnica com'è possibile affidarla a quesiti referendari se è troppo tecnica, e tanti altri a quel punto però hanno detto anche no, non è affatto tecnica perché poi è attraverso il referendum sul principio proporzionale e sulla preferenza unica che abbiamo cambiato il sistema politico italiano, e sono tutti, mi è piaciuto leggere nella successione dei messaggi sms questi punti di vista, perché io li condivido tutti esattamente così. Io non credo che sia troppo tecnica, credo che sia stato proprio il giudizio popolare a smuovere ciò che nella prima repubblica era ormai indifendibile. Oggi naturalmente i punti di vista sono diversi e legittimi. Allora, come risponde Stefano Passigli alle diverse osservazioni venute dai nostri ascoltatori? Allora, Allora, innanzitutto concordo con lei con questa ultima sua affermazione dell'importanza che possano avere i referendum per scuotere l'albero, per smuovere la situazione, per giungere in via parlamentare o in malaugurata ultima ipotesi proprio in via referendaria a comunque modificare una situazione non soddisfacente. A Michele che dice ma perché non il vassallo eccetera, il Parlamento può fare qualsiasi cosa, è molto chiaro che dei referendum abrogativi non possono che levare qualcosa in una legge, non possono aggiungere nulla, quindi non possono diciamo promuovere situazioni e soluzioni che non siano già in una qualche misura nella legge. Quindi il vassallo è questione che riguarda solo il Parlamento. Se il Parlamento vuole introdurre una legge del genere, benissimo, può introdurre quella o altre, ma è il Parlamento che deve agire. Non agendo il Parlamento, certo, si torna alla questione invece del referendum. Marco solleva indirettamente una questione molto seria, che è quella della qualità della classe politica. Che cosa fa l'attuale legge e che cosa fa in ultima analisi qualsiasi legge in cui il cittadino non si sia espresso e non sia lui che ha scelto il parlamentare? Incoraggia il trasformismo. Se io sono, che abbiamo visto in questo Parlamento esplodere, se io sono nominato da un capo partito e non eletto da una constituency, da un collegio, da un gruppo di cittadini che hanno espresso una preferenza per me, che cosa succede? Succede che io rispondo a un unico capo partito. Nel momento in cui quel capo partito non diventa per me parlamentare più affidabile, un altro capo partito mi fa offerte superiori, mi garantisce la rielezione, è molto facile per me, non legato né a un territorio né a un gruppo di elettori che hanno espresso preferenza per me, cosa faccio? Posso benissimo cambiare padrone, mi trasferisco, mi trasformo, vado sotto un'altra bandiera. E questo purtroppo l'abbiamo già visto, quindi è molto pericoloso avere sistemi in cui sostanzialmente il parlamentare dipende dal beneplacito del segretario del suo partito e non da un sistema di impegni più vasti presi con una constituency. Andrea dice il bipolarismo mandiamolo, in tutto il mondo quando vi è competizione bipolare cioè mandiamolo, rottamiamolo, no, c'è dell'ottimo nel bipolarismo, perché i cittadini vedono chiaramente quali sono le alternative di governo e spostando il loro voto responsabilizzano la classe politica. Su questo credo che anche Stefano Ceccanti sia pienamente d'accordo con me, è un punto di convergenza non da poco. Perché è importante che ci sia bipolarismo e questo avviene in tutti i paesi? Proprio per permettere una maggiore presenza e peso dell'opinione pubblica. Il punto mio, e qui veniamo alla differenza con Ceccanti, è che il bipolarismo può essere assicurato anche da sistemi proporzionali razionalizzati. La Spagna ha un sistema proporzionale, ha piccoli collegi, ha un bipolarismo. La Germania ha un sistema proporzionale, ha un sistema costituzionale con la sfiducia costruttiva alla soglia di sbarramento al 5, ha competizione bipolare, perché intendiamoci, bipolarismo non vuol dire due partiti. No, certo. Vuol dire due schieramenti che competono per il governo. Questo è meglio che uno schiero, che è una situazione indifferenziata in cui poi tutto si forma in Parlamento. Sono convinto che se tornassimo alla proporzionale, come che non è che noi proponiamo, certo, è quello che avverrebbe se dovessimo andare fino in fondo al referendum, come conseguenza in Italia ormai vi è sufficiente spirito bipolare da non permettere a nessun partito di presentarsi alle elezioni dicendo beh, noi dopo mani le libera, elezioni mani vedremo libera cosa fare. Allora intanto la fermo qua perché altrimenti poi non c'è tempo. Abbiamo ancora un'ultima rapidissima, devo dire 20 secondi, chiamata che ci viene dalla provincia di Bari. Nicola Marmo, prego Nicola. Che buongiorno, credo che sia il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, anche per questo poi ci tenevo che parlasse. Qual è il suo punto di vista flash? E la mia proposta è molto semplice, noi abbiamo già una legge elettorale che ha funzionato benissimo per moltissimi anni e continua a funzionare, ed è la legge elettorale per le provinciali, dove si uniscono le due caratteristiche, il proporzionale puro e e i collegi dove i partiti possono essere rappresentati con propri candidati, dove c'è la competizione, dove l'attribuzione dei seggi viene assegnata in funzione proporzionale pura, con uno minimo sbarramento e con un premio di governabilità. Quindi credo che quella possa essere la legge, diciamo, più confacente all'attuale situazione, e cioè quella in cui c'è il proporzionale e abbiamo un premio di governabilità e abbiamo collegi uninominali. Per cui credo che questa possa essere un terreno di discussione. E per questo naturalmente c'è bisogno di un Parlamento, perché a quello non ci si arriva ritagliando con iniziative referendarie rispetto alla legge elettorale attuale. Allora, invece, le considerazioni di Stefano Ceccanti. Ma dunque, c'è una parte di metodo che faccio che è uguale a quella che ha fatto Passigli, cioè molte delle richieste degli ascoltatori sono del tutto legittime, ma non si possono ottenere con lo strumento del referendum. Quindi si possono sottoscrivere, si possono fare delle notazioni, però diciamo condivisibili, ma non si possono chiedere al canale di cui discutiamo stamane, il referendum, che serve a provocare una decisione parlamentare rispetto a una legge che penso che nessuno condivide. Quindi questa è la premessa. Allora, rispetto a quello che si può fare per via referendaria, il mio giudizio è questo: per via referendaria l'unica cosa che si può fare per ripristinare un rapporto eletti ed elettori è restaurare la legge Mattarella e quindi i collegi, perché la strada delle preferenze che propone il professor Passigli non si può perseguire. Questa è la mia valutazione. Quindi se uno vuole scardinare le liste bloccate deve essere a favore del ripristino dei collegi uninominali. Io li preferirei a doppio turno, ma questo si può fare solo per via parlamentare. E anche gli altri sistemi di cui però hanno parlato alcuni elettori creano dei problemi. Per esempio quello delle provinciali apparentemente ti fa correre i candidati nello stesso collegio, ma in realtà c'è una graduatoria per partito, per cui diciamo in realtà io che sono candidato nel collegio di Firenze competo con quello del mio partito a Pistoia. Cioè, quindi questa competizione che risulta agli elettori sulla scheda non è la competizione che si sviluppa poi. Quindi diciamo stiamo attenti alle, queste sono cose molto tecniche, però alcune cose che vengono presentate come risolutive e tanto risolutive non sono, o hanno quantomeno delle altre controindicazioni. L'altro punto è che io penso, al contrario di Passigli, che in Italia se noi abbiamo una legge proporzionale con uno sbarramento che peraltro è aggirabile e ci sono dei partiti che si possono mettere in mezzo, quelli non dichiareranno affatto prima del voto di allearsi, andranno dalle due parti e magari per ottenere la presidenza del Consiglio avendo preso il 6-7%. Perfetto. Io sono assolutamente convinto di questo. La devo fermare, i due punti di vista sono molto chiari, sono tutte e due interni al centro-sinistra e trasversali, però perché queste sono questioni trasversali. Io in piccolo, solo alla fine, dichiaro il mio punto di vista. Io ahimè difendo il più possibile il maggioritario e quindi mi troverei nel campo Ceccanti e discepoli del professor Barbera, per così dire, perché credo che il frazionamento iperproporzionalista, che non dico figlio dell'iniziativa di Passigli, ma insomma per come io conosco la politica italiana, ci ha portato un fracco di disastri, devo dire la verità, non inferiori a quelli di questi 17 anni parossistici oramai. Detto questo, poiché il mio punto di vista minoritario, meno Stato, meno tasse, più mercato, più concorrenza, eccetera eccetera, solo con coalizioni maggioritarie il mio punto di vista può cambiare l'Italia, altrimenti già siamo quattro gatti, già si pigliano con le promesse quello che dicono di fare pensandola come noi e poi non la pensano come noi, non lo fanno, e saremo ancora più sconfitti. Viva il debito pubblico, viva le tasse, viva lo Stato che dà regole diverse a lui di quelle che dà a me, e quindi mi dispiace, è ladro. Questa è la mia conclusione anche oggi e intanto appuntamento a lunedì, linea al giornale radio. Grazie al professor Ceccanti e al professor Passigli.